fare cantar l'amore, il dolce amore che prende il cuore. Voglio soltanto gioire ma più soffrire, e poter dire in un sospiro, amor, la dolce tua parola, profumo che consola e fa felice il cuore. Amor, mi basta un tuo sorriso, è tutto un paradiso, tu mi dischiudi allor. Pupille nere che sanno addormentare, bocche sincere, io voglio solo il bacio. Amor, la dolce tua parola, profumo che consola e fa felice il cuore. Quando la notte nel cielo appar serena, ogni mia pena dal cuor si frena. Vedone stelle curiose fra lor parlare, che voglion fare, vorran cantare. La dolce tua parola, profumo che consola e fa felice il cuore. Amor, mi basta un tuo sorriso, è tutto un paradiso, tu mi dischiudi allor. Pupille nere che sanno tormentare, bocche sincere, io voglio solo il bacio. Amor, la dolce tua parola, profumo che consola e fa felice il cuore. Sanno tormentare, bocche sincere, io voglio solo il bacio. Amor, la dolce tua parola, profumo che consola e fa felice il cuore.